Benvenuti! Il 27 gennaio di ogni anno, in diverse parti del mondo si ricordano le vittime del nazionalsocialismo, del fascismo e dell'olocausto. Proviamo a farlo anche noi, si badi però senza alcuna pretesa esaustiva vista la complessità dell'argomento, focalizzando l'attenzione su un aspetto dell'olocausto del quale si parla poco e che solo di recente ha attirato l'attenzione degli storici. Insieme agli ebrei furono infatti deportati zingari, prigionieri russi, testimoni di Geova, disabili e omosessuali. Ed è proprio a questa categoria sociale, considerata dall'ideologia nazista contraria ai principi etici, che rivolgiamo la nostra attenzione, dandovi alcuni riferimenti storici, facendovi ascoltare racconti, musica, il tutto affinché il poco che ad oggi si è riuscito a ricostruire non vada dimenticato. Io sono Livia Napolitano, ringrazio innanzitutto tutti voi per essere qui all'ascolto e le web radio che ci hanno dato spazio, Radio Libriamoci Web, Lifestyle Radio e Radio Centro Musica International. Ad aprire la nostra giornata della memoria speciale Omocausto, l'intervento sull'importanza di ricordare di Claudio Tosi, presidente dell'Arcigay Genova Prodo, accompagnato da Domenico Lazzaro, vicepresidente. Ricordare l'Olocausto non è una cosa facile, perché per un sacco di anni non se n'è proprio parlato. È passato sotto silenzio e non è stato fatto praticamente nessuno studio. Oggi è ancora difficile ricostruire esattamente la storia della deportazione degli omosessuali, perché non sono stati fatti studi come per le altre deportazioni. La deportazione degli ebrei è stata studiata tantissimo, giustamente. Anche altre deportazioni sono state studiate, quelle dei politici, per esempio. Altre sono state completamente dimenticate per tantissimo tempo. Quella dei disabili, quella dei testimoni di Geova, quella degli omosessuali, per esempio. E oggi è un problema capire come è andata, come è successo, perché non c'è rimasto più niente. Da poco tempo è anche morto l'ultimo deportato omosessuale. Non abbiamo più testimonianze dirette, pochissime sono state raccolte. Com'è successo tutto questo? È semplicissimo, l'omosessualità ha il semplice problema che, ostracizzata, impedisce alla persona di raccontarsi e di spiegare che cosa gli è successo. Chi alla fine della guerra raccontava di essere stato deportato per omosessualità si autodenunciava in molti paesi, automaticamente andava in carcere quando usciva dai campi di concentramento. Chi era riconosciuto come triangolo rosa, che era il segno che aveva sulla maglia, e usciva in Polonia dal campo di concentramento per andare direttamente in carcere, perché era un reato. Nel resto d'Europa comunque non era ancora facile dire di essere omosessuale, continuava ad essere un'autodenuncia e quindi nessuno raccontava. Gli storici non si sono preoccupati di fare ricerche. Improvvisamente, dopo anni e anni, ci si è resi conto che mancava un pezzo di storia. Però non era più possibile ricostruirla al completo. Diventa fondamentale decidere oggi di ricordarla, perché forse proprio perché più dimenticata delle altre ha il diritto e l'importanza di essere ricordata di più. Oggi è un discorso l'omosessualità ancora difficile, ancora oggi ci ritroviamo a fare delle battaglie per i diritti degli omosessuali e quindi bisogna ripartire da quei discorsi per costruire qualcosa oggi. In questa prima parte Claudio ha fatto riferimento a Rudolf Brazda, l'ultimo omosessuale fino a poco tempo fa rimasto in vita e sopravvissuto ai campi di concentramento. Domenico, puoi darci tu qualche notizia in più su di lui? Lui è venuto alle cronache giusto perché è l'ultimo omosessuale internato nei campi di concentramento che era ancora in vita fino a qualche anno fa. Poi è morto ed è venuto giusto alle cronache perché si era poi in effetti rivelato a tardissima età, solo nel 2008 credo che è venuto fuori questa sua situazione, perché come diceva Claudio prima, gli omosessuali non tendevano a raccontare la loro storia nei campi perché sennò venivano condannati in quanto omosessuali. Lui era nato in Cecoslovacchia e viveva con la famiglia in Germania, se non erro, però era cresciuto nel periodo della Repubblica di Weimar, che godeva, dove gli omosessuali comunque godevano di ampia libertà. Poi, vabbè, con l'aggravarsi della situazione, lui venne espulso dalla Germania in quanto comunque straniero, perché era nato. Poi, poco prima della liberazione dei campi, era riuscito a scappare con l'aiuto di un capò. E si era rifugiato poi in Francia, in Alsazia comunque. E lì condusse la sua vita con un suo compagno, e fino poi a mancare qualche anno fa. E in effetti lui è l'ultimo omosessuale che aveva la stella rosa, perché effettivamente non sappiamo se ci sono ancora omosessuali in vita, internati magari per un altro motivo, che potesse essere quello politico o quello di Ma quelli non religione. dichiarati, Quelli proprio riconosciuti come dice. omosessuali. E purtroppo effettivamente cosa viene a mancare? Questa trascrizione della storia di questa deportazione, perché nessuno è riuscito mai a raccontarla come doveva, no? E quindi in certo modo è la parte di storia che forse ha più bisogno di essere raccontata. Storicamente degli omosessuali deportati sappiamo alcune cose. Innanzitutto che venivano segnati con il triangolo rosa. Sappiamo che nei campi di concentramento erano tendenzialmente mandati a fare i lavori più ritenuti più umili e degradanti, dal pulire le latrine o a fare tutto ciò che era ritenuto in qualche modo sporco. Venivano considerati fisicamente come oggetto anche dagli altri detenuti, si racconta anche che sono stati violentati, ma soprattutto la cosa probabilmente più terribile, più facilmente venivano scelti per fare degli esperimenti medici. Himmler era convinto che dall'omosessualità si potesse guarire, che fosse una malattia, e quindi aveva autorizzato e chiesto di fare degli esperimenti che servissero a capire quali erano i modi per guarirla. Avevano cercato vari modi, qualcuno aveva cominciato a dire che non era possibile guarire dall'omosessualità, si sono accaniti in alcuni campi di concentramento, Dachau per esempio. Allora hanno chiesto ad un endocrinologo di intervenire, che ha cominciato a fare esperimenti con gli ormoni, ed iniezioni di ormoni, castrazioni, per vedere se riuscivano a riportarli all'eterosessualità. A qualcuno veniva anche proposto d'essere castrato, in cambio gli veniva data la libertà, una sorta di libertà vigilata. Erano costretti ad una vita comunque di segregazione, non nel campo di concentramento. A volte dovevano recuperare maschilità andando a combattere sul fronte in corpi che venivano mandati di fatto a morire, o comunque messi sotto dei comandanti che di loro avevano potere assoluto di vita e morte. Bisogna tener conto che pazzescamente dai campi di concentramento sono venuti i risultati dei più grossi esperimenti scientifici e medici della storia del 1900, da tutte le ricerche che sono state fatte sull'evoluzione genetica, il DNA, la genetica, l'endocrinologia, ma qualunque cosa, a livello psichiatria, ma anche le medicine più semplici. Si sa che le ditte tedesche di medicinali hanno costruito il loro patrimonio scientifico nei campi di concentramento. Avevano il permesso di fare quello che volevano, quindi l'hanno scoperto. Un'altra cosa che sappiamo sicuramente degli omosessuali nei campi di concentramento è che sono stati fra i primi deportati, perché già all'inizio degli anni 30 spesso venivano accusati di omosessualità, gli oppositori politici. Attraverso l'accusa di omosessualità venivano degradati davanti alla società, indicati come un pericolo, come qualcosa di contaminante della società, e quindi si sentiva la necessità di allontanarli. Già vicino a Berlino, nel campo di Sachsenhausen, venivano portati omosessuali nei primi anni 30 insieme agli oppositori politici. Un anno fa, nel gennaio 2014, per la giornata della memoria, l'Approdo Arcigay Genova ha deciso di organizzare una mostra per ricordare la deportazione degli omosessuali. Da dove nasce questo? Dai discorsi che abbiamo fatto adesso, cioè, visto che la memoria della deportazione degli omosessuali va portata in giro, ripresentata il più possibile, era necessario farlo anche a Genova. Abbiamo cercato un modo creativo ed efficace, e quindi abbiamo scelto una mostra di arte contemporanea. Non solo però perché efficace nella comunicazione, ma anche perché capace di comunicare emozioni. Se il problema della deportazione degli omosessuali è che non c'è una storia scritta, non ci sono tanti studi fatti, anche per noi diventava difficile raccontarla nei dettagli. E allora abbiamo scelto sì di raccontarla dal punto di vista storico, ma di concentrare la mostra soprattutto su una trasmissione e comunicazione di emozioni. Abbiamo cercato di spiegare all'osservatore che cosa doveva provare la persona deportata, oppure che cosa voleva dire la deportazione, ricordando soprattutto gli omosessuali. Mi ricordo una cosa, diciamo, che mi è piaciuta molto, è che le persone all'interno della mostra venivano spogliate della propria identità esterna, no? Venivano trasportate proprio in un nuovo mondo affinché potessero capire e interagire su che cosa significava poi essere appunto svestiti del proprio essere per diventare dei numeri piuttosto che dei triangoli. Sì, la mostra era divisa in più parti. Chi veniva a visitarla, appena entrava, doveva fare una cosa: andare ad un banchetto, su cui erano appoggiati dei triangoli di vari colori, e scegliere da un cartellone quali erano i triangoli giusti per lui. Sul cartellone c'erano segnati i simboli di ogni colore. Quindi il rosa per gli omosessuali, il nero per quelli ritenuti asociali, fra cui anche le lesbiche, il viola per i testimoni di Geova, la stella gialla per gli ebrei. Ognuno arrivava lì e sceglieva che identità avere nel modo più libero assoluto, durante tutto il percorso della mostra. Ecco, una distinzione da fare è proprio quella che viene fatta fra gli omosessuali e le lesbiche, Prima dove della le mostra di donne veniva marzo. considerata sicuramente meno pericolosa, perché comunque le donne potevano comunque procreare, poi potevano tornare a fare la loro vita, oppure la loro scelta sessuale, che poi non era una scelta, era qualcosa che dal punto di vista della società non le esponeva più di tanto. Invece l'omosessualità maschile era considerata più un affronto verso Sì, era anche un modo di negare una sessualità femminile, se vogliamo. Quindi secondo me è una negazione ancora più grave, no? Esattamente, ma ancora oggi vediamo questo problema. È semplicemente una prova in più dell'invisibilità dell'omosessualità femminile, della donna probabilmente in generale a 360 gradi, ma anche dell'omosessualità, quindi l'omosessualità femminile scompare. Lo vediamo ovunque, cioè, dal solo fatto ancora oggi che esista la parola lesbica per definire l'omosessuale femminile e ci siano un sacco di parole per parlare invece dell'omosessualità maschile. Anche questo è un po' indice di questa invisibilità. E nei tempi, chiamiamoli oscuri, quelli della de deportazione, era un problema, doveva essere affrontata l'omosessualità maschile, si riusciva a non vedere l'omosessualità femminile. Era un percorso in quattro stanze. Attraverso queste quattro stanze si doveva avere l'impressione di percorrere un viaggio che dall'inizio della deportazione fino alla sua conclusione. Iniziava con una stanza buia, cupa, con sulle pareti proiettate l'immagine del patriarca russo ortodosso, l'attuale, Kirill si chiama, che sostiene, le si sente dalle parole che diceva a voce altissima, la politica di Putin, che in quel momento in particolare stava iniziando una crociata molto forte contro gli omosessuali e in generale contro tutto ciò che è diverso. Questo per dire, per capire la deportazione dobbiamo iniziare dalle basi, cioè la paura del diverso e nel nostro caso dall'omofobia. La seconda stanza invece era dedicata all'arrivo nei campi di concentramento. C'erano delle impalcature alle quali erano appese delle giganti immagini di persone che si spogliavano o già nude. Al centro della stanza i vestiti. Era bello perché l'artista l'aveva pensato sia per ricordare l'immagine dell'arrivo al campo, ma anche per riflettere sull'identità delle persone che si presentavano spogliandosi per quello che erano. La terza stanza, dedicata alla sofferenza nel campo di concentramento, c'era una colomba su cui pian piano cadeva del sangue. E la quarta era una stanza con un tappeto al centro, solo quello illuminato, che faceva vedere dei corpi maschili nudi contorti l'uno nell'altro. Una cosa che è successa molto bella durante la mostra è stata questa. Sono venute due classi di una scuola elementare in visita. Le maestre avevano preparato i bambini spiegandogli che cos'è un omosessuale, che cos'è stata la deportazione degli omosessuali. Quindi sono arrivati preparati, hanno affrontato tutte le difficoltà di capire che cosa vuol dire due persone dello stesso sesso che si vogliono bene. E sono rimaste 2 ore e mezza queste due classi all'interno della mostra. Le maestre erano contentissime perché raccontavano che hanno notato ogni dettaglio. Una cosa molto bella perché l'arte contemporanea a volte ho la sensazione che da un bambino sia capita meglio che da un adulto. Vede di più i dettagli, si rende conto di quanto può essere complesso quello che ha davanti, più di un adulto che magari con pregiudizi se ne fa una propria idea, tralasciando delle cose che invece un bambino vede. E hanno giocato anche loro, in questo caso dico giocato, all'inizio della mostra con i triangoli e le stelle che erano sul banchetto. È stato interessante perché per loro era un gioco mettersi il triangolo addosso e decidere di che gruppo volevano fare parte, ma è anche stato un modo per capire l'identificazione. Una ragazza li ha guidati all'interno del percorso, che quindi ha preso il triangolo nero, rivelandosi come lesbica ai ragazzi. Siccome nel cartellone c'era scritto asociale, alcuni bambini gli hanno detto: "Ah, ma allora tu sei asociale", e hanno cominciato a capire come funzionava l'identificazione. Sì, è impressionante vedere come negli anni 20 e 30 dicevano le stesse cose che ci sentiamo dire ancora oggi. Leggo un paragrafo del libro di Giorgio Giannini dal titolo Vittime dimenticate. Dice che sempre nel 1928 si tenne una conferenza sull'omosessualità in una scuola di Berlino. E ci fu un feroce attacco dal quotidiano nazista Völkischer Beobachter, che pubblicò un articolo dal titolo "Omosessuali tengono conferenze nelle scuole per ragazzi, così si distrugge la gioventù", nel quale era scritto: "Gli individui più vili sono all'opera per intossicare la nostra gioventù nel periodo più importante per il loro sviluppo e lo Stato è incapace di reagire. Perché? Perché tutti i partiti dai quali escono i ministri devono scendere a patti con i capibanda pederasti che sono i loro amici politici. Questa contaminazione è la prova della collusione irremovibile tra marxismo, pederastia e intossicazione sistematica della gioventù. Tedesche, donne del popolo lavoratore, marciate con noi nazionalsocialisti e mandate al diavolo i vostri corruttori." E comunque, il Sì, parlare nelle scuole è un impressionante. problema ancora oggi. E Adesso qui chiaramente le parole sono diverse, sono più ideologiche, nazionalsocialiste, però Sì, sono gli una stessi problemi volta che abbiamo una oggi. chiusa politica. In Italia la situazione per gli omosessuali durante il periodo fascista era molto diversa rispetto a quella degli omosessuali durante il periodo nazista in Germania. Non perché in Italia fossero più bravi, ma molto semplicemente perché in Italia avevano deciso che gli omosessuali non esistevano. La frase che riassume questo concetto è: in Italia sono tutti maschi. Riconoscere, anche solo nel codice civile nel quale di persecuzione dell'omosessualità non si parlava, voleva dire ammetterne l'esistenza. Quindi l'Italia si gloriava all'estero, anche in Italia stessa, di non avere omosessuali. Non esistevano. Cosa veniva fatto infatti alle persone che venivano trovate? Non si faceva gran clamore, venivano segnalati come disturbatori dell'ordine pubblico. E sono stati portati nelle isole Tremiti, al confino. Non è stata una gran quantità di persone, è stato un provvedimento relativamente piccolo e che si è soprattutto concentrato in alcune zone e regioni italiane, soprattutto al sud, se non sbaglio, soprattutto Catania. Se ne sa poco, è difficile rintracciare documenti, però comunque deve essere stato un numero esiguo di persone. Questo perché in Italia non dovevano esistere. Cioè, l'invisibilità dell'omosessualità femminile è stata in qualche modo applicata anche all'omosessualità maschile in Italia. E poi perché c'è sempre stata un po' l'idea che in fondo se uno è vizioso, tanto l'importante è che non lo dica e che non lo faccia vedere. Quando noi ricordiamo la deportazione degli omosessuali, parliamo soprattutto di deportazione nazista, non parliamo di deportazione di omosessuali in Italia. E anche durante l'occupazione tedesca, i problemi principali li hanno subiti soprattutto ebrei e oppositori politici. Non mi pare che si sia parlato di deportazione di omosessuali. Bisogna comunque sempre sottolineare che studi reali non ne sono mai stati fatti, non si sa nulla. Una cosa che colpisce è che un accanimento così forte contro gli omosessuali è nato in un paese in cui invece gli omosessuali vivevano una vita molto ma molto più libera che in altri paesi. Probabilmente le prime comunità omosessuali, le prime associazioni omosessuali, i primi locali omosessuali liberi, pubblici, forti, sono nati proprio a Berlino durante la Repubblica di Weimar, quando verso l'omosessualità c'è stata grande apertura e tranquillità. Tant'è vero che il 23 febbraio del 1933 Hitler ha imposto la chiusura di tutti i luoghi pubblici frequentati da omosessuali, cioè club, bar e alberghi. E si parla di una quantità di locali che probabilmente ancora la Berlino di oggi non è riuscita ad eguagliare. E questo è voluto dire però in poco tempo, dal 23 febbraio 1933, chiudere tutto, chiudere un capitolo di questa storia e iniziarne invece uno completamente diverso. Quest'anno a Pro d'Arcigai Genova ricorderà la giornata della memoria in un modo diverso. Ci è capitato di poter organizzare una rassegna teatrale. Quattro compagnie italiane ci hanno chiesto di portare a Genova i loro spettacoli. Siamo riusciti a raggrupparli insieme grazie al Teatro della Tosse, nello spazio La Claque, li presenteremo a Genova. Il primo spettacolo si intitola Bente di Martin Sherman ed è la storia di due omosessuali berlinesi che vengono deportati durante la dittatura nazista. Ci è sembrato quindi opportuno far coincidere la data dello spettacolo con il periodo della giornata della memoria, infatti sarà il 29 di gennaio. Uno spettacolo creativo, interattivo, cerca di coinvolgere molto gli spettatori, non solo per fare spettacolo teatrale, ma anche per farli ragionare. È uno spettacolo infatti molto forte e con un finale molto forte. Subito prima dello spettacolo presenteremo nel luogo stesso, nel teatro, il libro L'ultima onda del lago di Stefano Paolo Giussani, un romanzo che racconta la storia inventata di un omosessuale durante il periodo fascista in Italia. Il resto della rassegna teatrale non riguarda la giornata della memoria, però siamo stati fortunati. Gli altri spettacoli parlano soprattutto di donne. Donne lesbiche. Abbiamo detto prima, l'omosessualità femminile è sempre praticamente invisibile. Con questa rassegna finalmente riusciamo a farla vedere un po' di più. Bene, ringraziamo per essere intervenuti Claudio Tosi, presidente dell'Arcigay Genova Prodo, e il vicepresidente Domenico Lazzaro. A chiusura di questa prima parte vi faremo adesso ascoltare un brano dal titolo Liberation of Mauthausen del compositore e musicista spagnolo José Manuel Quintana Camara, per ritrovarci subito dopo e riprendere il nostro viaggio della memoria. Buon ascolto!